Between a Street Crew, Moreno Costa, Bologna 2010. Sono l'MC che ti fa sballare, mi vedi alzare, mi vuoi fermare, vuoi parlare o ti vuoi spogliare? Non ci provare, potrei accettare. Uno come me non lo devi provocare. Non puoi ammiccare se mi gira a guardare. E se mi avvicino inizia a scappare. Una sola occasione ti posso dare. Non la sprecare, ti voglio avvisare. Meglio di me non puoi trovare. Solo una notte senza complessi, due sconosciuti fra mille amplessi. Nessuna promessa di amore eterno, ma tanto sesso da scaldare l'inverno. Non so neanche il tuo nome, non te l'ho chiesto. Potrei farlo adesso mentre ti svesto. Ora non è il caso, abbiamo altri pensieri. Faccio a cambio volentieri. Mi trovi interessante, quasi attraente, anche se ti guardo con sguardo assente. L'occhio mi cade sul vestito aderente, ma soprattutto su seno abbondante. Mi sfiori con la mano casualmente, smuovendo il mio caso di calma apparente. E tu noti tutto, logicamente. Sono indecente ma ancora cosciente. Nonostante la fase crescente, non credo ti disturbi, onestamente. Solo una notte senza complessi, due sconosciuti fra mille amplessi. Nessuna promessa di amore eterno, ma tanto sesso da scaldare l'inverno. Non so neanche il tuo nome, non te l'ho chiesto. Potrei farlo adesso mentre ti svesto. Ora non è il caso, abbiamo altri pensieri. Faccio a cambio volentieri. Dopo due ore hai l'aria assonnata e mi propongo per darti una svegliata. Mi dici perfetto con aria spacciata e già vola la mia mente bacata. Scelta azzeccata, mia debendata. Ci divertiremo questa nottata. Domani mattina ti avrò scordata. Non sei preoccupata né disperata. Sapevi già a cos'eri destinata, ma questa notte l'hai tanto sognata. Solo una notte senza complessi, due sconosciuti fra mille amplessi. Nessuna promessa di amore eterno, ma tanto sesso da scaldare l'inverno. Non so neanche il tuo nome, non te l'ho chiesto. Potrei farlo adesso mentre ti svesto. Ora non è il caso, abbiamo altri pensieri. Faccio a cambio volentieri.